come andrà a pescare questi contenuti e se i contenuti che funzionano su internet funzionano anche per il divano. Certo, questa è la domanda fondamentale, perché il punto è che cosa poi fa, come lo usano davvero gli utenti questo super motore di ricerca televisivo? Volevo citare un altro dato per aiutarci un po' a capire meglio, cioè quello che ha riportato Nielsen qualche tempo fa a proposito dell'abitudine del 60% degli spettatori statunitensi, quindi stiamo parlando di 134 milioni di persone, a usare contemporaneamente la TV e il computer, cioè belli distesi sul loro divano, stanno lì col notebook. E che cosa fanno poi sul notebook? Cioè, diciamo, mentre guardano la televisione scrivono sul notebook? Mentre guardano la televisione, sì, sono connessi a internet, utilizzano Facebook, utilizzano Twitter, naturalmente, e commentano, rielaborano, vanno alla ricerca di approfondimenti su quegli stessi contenuti televisivi che stanno guardando dal piccolo schermo. Quindi è un po' come una chiacchiera da salotto? Una sorta di salotto globale, se vogliamo parafrasare le espressioni celebri. Il mio dubbio è, Google con questo esperimento sta creando una sorta di iper super macchinario, forse poi alla fine gli spettatori questo super macchinario, le funzioni di questo super macchinario se lo sono già fatto in casa, prendendo un computer, mettendolo sulle ginocchia o meglio ancora su uno dei tavolini che ormai prima faceva solo IKEA, adesso li fanno anche le grandi aziende di design di arredamento per la casa, che fanno dei tavolini da divano apposta per appoggiarci il notebook. Quindi cambia anche un po' l'ambiente domestico, cioè cambia anche un po' come dire la casa, perché nel momento in cui cambia, diciamo, l'utilizzo della televisione, quindi non si guarda più soltanto passivamente sul divano con il telecomando in mano, ma ecco, c'è anche qualcosa di più interattivo come il computer. Assistiamo anche a un cambiamento proprio della nostra stessa vita domestica.